Voci di piccola impresa, idee anticrisi, di Anna Marino. Benvenuti a Voci di piccola impresa, idee anticrisi, porte aperte e ponti d'oro alle start-up. Non è solo un sogno, ma si moltiplicano le occasioni che fanno da trampolino per le nuove idee. È il momento giusto, come quella offerta da Speed Me Up, incubatore e acceleratore di impresa promosso da Camera di Commercio Comune di Milano e Università Bocconi, che ha messo online il bando, che potete scaricare e cliccare su speedmeup.it, per partecipare alla selezione delle idee imprenditoriali innovative, cioè in termini di prodotto, processo produttivo, vendita o distribuzione, che sono solide e potenzialmente internazionali. Le startup e i freelance scelti entreranno in un programma di mentoring e servizi di eccellenza. Pensate che secondo la Camera di Commercio sono oltre 5.000 le imprese nate a Milano nei primi mesi del 2014 e così se ne attendono altre. L'iscrizione è aperta dall'11 marzo al 30 aprile 2014. Provare per credere, anzi cliccare per credere, come hanno fatto queste due startup che Spin Me Up ha incubato nelle precedenti edizioni. Cerca Officina, www.cercaofficina.it, è un servizio gratuito che in 24 ore fornisce preventivi personalizzati sulla riparazione o manutenzione dell'automobile. La richiesta di questo preventivo viene inoltrata alle officine affiliate. Le offerte valgono 15 giorni bloccate. Una volta scelta l'offerta migliore, si può contattare l'officina per fissare l'appuntamento dell'intervento. Per ora è solo a Milano, ma punta a tutta Italia e all'estero. Marco Brusamolino, che insieme a Luca Macarini ha pensato anche di lanciare un'app. Questa idea è nata quando Luca, che è mio socio, Luca Maccarini, era a Berlino. Lui era, diciamo così, andato a Berlino appunto proprio a causa della crisi. Entrambi, diciamo così, avevamo voglia di metterci in gioco e creare qualcosa di nostro in Italia. Quindi prima dell'idea è nata la volontà di averne una. Sì, esatto. Così abbiamo unito le nostre competenze. Io vengo comunque dal settore automotive, lui è un programmatore informatico e abbiamo unito, diciamo, le nostre competenze e abbiamo incominciato a pensare così a cercaofficina.it. Cercaofficina.it, che cosa dà in più e meglio, insomma, alle persone che si rivolgono a voi? L'idea appunto è quella che un qualsiasi automobilista va sul sito www.cercaofficina.it e può richiedere un preventivo per la riparazione e manutenzione dell'auto. In questo modo riceve i preventivi direttamente dalle officine, in genere entro 24 ore, a modo quindi di confrontarli e valutare il miglior preventivo in base al prezzo, alla distanza dall'officina, alle recensioni. Il servizio è gratuito e quindi nessuno paga. Ma perché siete proprio andati a parare nelle officine con la vostra idea? Siamo andati a parare per l'officina perché era il mio settore. Io ho fatto il venditore di auto per 7 anni ed ero a contatto quotidianamente con l'officina della concessionaria e sono entrato appunto nei meccanismi, nelle problematiche che ha un'officina tutti i giorni, ed effettivamente le officine rispetto ad internet sono indietro rispetto appunto a come sta andando il mercato in altri settori. In altri settori appunto ormai internet è diventato fondamentale, l'officina appunto mancava di questo servizio. Diciamo. Avete colmato insomma un gap, un buco di mercato. Ecco, la cosa importante è però come avete fatto poi a realizzarlo, perché diciamo sempre che l'ascolto vale mille astuzie, magari interessa anche altri come siete riusciti a mettere in piedi l'idea. I soldi da chi sono arrivati, l'aiuto da chi è arrivato? L'aiuto è arrivato da quelli che si chiamano Family and Friends, nel dettaglio appunto è un nostro amico d'infanzia che abbiamo parlato del progetto e ha creduto fin da subito nella realizzazione del progetto e l'ha finanziato nella fase proprio iniziale. Poi ci sono state altri aiuti magari un po' più strutturati? Noi abbiamo avuto la fortuna o il merito di vincere il bando di Speed Me Up. Questo ci ha permesso appunto di accedere all'incubatore e quindi trarre tutti i vantaggi che crea l'incubatore. Da lì che cosa sono arrivati? Soldi, aiuti, uno slancio? Speed Me Up prima di tutto ci ha dato la formazione che effettivamente non avevamo, nel senso che non avevamo mai avuto esperienze imprenditoriali. Ecco, perché da notare quindi anche che voi siete giovani, quanti anni avete? Sì, abbiamo 28 anni entrambi. Poi ci hanno dato gli spazi di lavoro e poi Speed Me Up fa parte Università Bocconi, Camera di Commercio, Comune di Milano, e naturalmente Camera di Commercio dà la possibilità di conoscere per tempo i bandi che poi propone, diciamo, per start-up e quant'altro. Da che cosa arrivano le revenue, cioè i guadagni, e soprattutto questa offerta, quanto dura, che garanzie dà? Per l'automobilista è completamente gratuito e lo sarà sempre. Le revenue vengono direttamente dalle officine, che pagano un canone mensile per usufruire di tutti i servizi che appunto dà cercaofficina.it. Questo modello naturalmente crea valore per entrambi, perché appunto l'automobilista ha la possibilità di confrontare i preventivi comodamente da casa sua e l'officina ha la possibilità comunque di espandere il proprio business attraverso internet. Come intendete poi sviluppare questo servizio, che a questo punto è chiuso, è un pacchetto? Allora, lo implementeremo sicuramente con un'app per smartphone, e integreremo anche tutto con una sorta di garage personale dell'utente, dove potrà gestire le proprie scadenze, ad esempio la scadenza dell'assicurazione, della patente, del tagliando, della revisione, eccetera, direttamente su cercaofficina.it, e noi gli manderemo l'alert con la scadenza, ricordando, esatto. Siete solo a Milano? Sì, attualmente solo sul Comune di Milano. Nei prossimi mesi contiamo di espanderlo, appunto, e così tutti avranno modo di cercare la propria officina direttamente sul nostro sito in tutta Italia. Anche in quest'altra idea anticrisi c'è un po' di online e un po' di economia reale. E il mix è di SpeedyPlan, www.speedyplan.com, soluzione cloud nel campo della logistica. Vendono un servizio online di ottimizzazione e gestione trasporto merci in una rete di punti di prelievo e consegna. È rivolto alle aziende, ma la velocità interessa anche ai consumatori. Da cosa nasce cose? Da pochi giorni SpeedyPlan.com è stato selezionato per far parte del progetto Impresa per Impresa di Confindustria di Verona. Dario Zamboni ci racconta come, insieme a Luca Gamberale, ha lavorato all'idea anticrisi di giorno e di notte. L'idea di business è nata da una necessità di un'azienda, in realtà, nel senso che io avevo un contatto con un cliente che mi ha chiesto se ero in grado di risolvere un loro problema. Questa società è una multinazionale che opera nel settore dell'industria elettromeccanica e aveva la necessità di ottimizzare i trasporti di circa una cinquantina di mezzi che quotidianamente circolano nel nord Italia a consegnare e prelevare qualche centinaio di consegne. Io lavoravo come consulente informatico e il mio socio lavorava come fisico e aveva una forte esperienza nel campo del calcolo computazionale. Dalla vostra unione che cos'è nato? Qual è l'idea? Noi vendiamo una soluzione cloud di ottimizzazione appunto dei trasporti. Qualcuno vi ha aiutato a fare questo passo? Perché che età avete e ovviamente a che punto della vostra carriera è arrivata questa idea? Beh, i primi soldi ce li abbiamo messi noi, ma in realtà noi ci abbiamo messo molto lavoro. Questo progetto è durato diversi anni. Mi ricordo delle notti tremende quando il mattino dopo dovevamo incontrare i primi clienti e fare le presentazioni. Finivamo di preparare le presentazioni alle 5 del mattino con l'incontro col cliente alle 8 e mezza del mattino, perché eravamo stanchi e distrutti, però insomma siamo andati avanti. Questo vuol dire che appunto, come dire, uno ci ha messo non solo la faccia ma anche anche le ore di sonno sull'idea. Ecco, invece quando sono arrivati e quali sono arrivati questi aiuti più strutturati? Successivamente noi abbiamo avuto l'opportunità di entrare in Speed Me Up, che è un incubatore della Camera di Commercio di Milano e dell'Università Bocconi, e lì abbiamo cominciato a crescere molto rapidamente. Come avete fatto a entrare in questo incubatore? Trovato il bando, chiudeva dopo una settimana, quindi anche lì giorno e notte per preparare tutti i documenti e tutte le carte per partecipare al bando, e abbiamo vinto il bando. Ecco, questo vi ha permesso di avere che cosa subito? Beh, intanto siamo entrati in una struttura con degli uffici, un network importante sia di tutor e di formazione che di conoscenze. Oltretutto, lavorando in Bocconi, ci siamo trovati in un ambiente molto, molto creativo e molto produttivo. Ecco, la cosa importante è anche che siete stati selezionati per far parte del progetto Impresa per Impresa di Confindustria di Verona. In che cosa consiste e come avete fatto? Questo è arrivato dopo il nostro ingresso in SpeedMeUp. Impresa per Impresa è un'idea molto interessante di Confindustria di Verona, che si pone come obiettivo di far incontrare aziende consolidate con start-up che hanno delle proposte interessanti, nuove, e le aziende consolidate gli danno la possibilità di sviluppare il loro business, sia da un punto di vista tecnico sia da un punto di vista commerciale. Ci permetterà di incontrare delle aziende che fra l'altro nella zona di Verona ce ne sono tante, di logistica e di trasporti, con cui collaborare e crescere dal punto di vista commerciale, cose di cui noi abbiamo molto bisogno. E le piccole imparano dalle grandi e viceversa, questa sarebbe la vera rete in Italia, no? Sì, esattamente, anche perché noi siamo piccoli ma abbiamo tante idee, abbiamo la capacità di metterle in pratica e di portarle avanti, cosa che magari un'azienda più grande, più strutturata fa fatica, ha dei tempi di reazione che sono molto molto molto più lunghi dei nostri. Iscrivetevi ai bandi, l'ascolto vale mille astuzie, e se volete ascoltare le precedenti storie o scriverci le vostre, Voci di Piccole Imprese su Twitter con l'account @VociPMIRadio24, su Facebook alla pagina Voci di Piccola Impresa, il blog è su www.radio24.it. Grazie alla collaborazione di Anita Panizza. Un saluto da Anna Marino.